Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Infinito. Scrivendo questo libro, atterrito dal fatto che la materia si svelasse inconsistente, mi accorgevo che l'idea delle panchine contaminava tutte le mie esperienze, non metaforicamente, ma alla lettera. Per esempio, le panchine rimandano allo stare seduti. Che cosa è sedersi? Quanta parte della vita avviene da seduti? Quanti sinonimi di panchine esistono nella nostra vita quotidiana, nei nostri atti che ci passano inosservati? Non siamo su una specie di panchina anche quando siamo al cinema o a teatro, per non dire in una chiesa. A definire le panchine, tuttavia, non è solo il sedersi, ma un certo tipo di sedersi, un certo uso, non solo e non tanto del proprio corpo, quanto del proprio tempo e della propria mente. Lasciare libera la mente di vagare. Divagare. Passeggiare da fermi. Trasognamento. Ero molto fiero di avere tradotto con questa parola il francese rêverie, che dà il titolo all'opera postuma di Jean-Jacques Rousseau, Le rêverie du promeneur solitaire. Di solito veniva tradotta con due parole non solo cacofoniche, fantasticherie del passeggiatore solitario, ma anche sbagliate. Fantasticare è un atto più volontario di quello che intende la parola rêverie, che contiene il sognare. Essere, appunto, trasognati. Coincidenza. Proprio mentre stavo scrivendo queste frasi, cercando dei riferimenti in internet, mi imbatto nel sito bookcrossing.com, dove scopro che una lettrice, tale Afrodita da Torino, ha rilasciato sulle panchine di Piazza Castello a Torino, davanti alle fontane, una copia di Jean-Jacques Rousseau, Le passeggiate del sognatore solitario, Feltrinelli, traduzione e cura di Beppe Sebaste, di cui erano riportate alcune frasi della quarta di copertina, l'opera più perturbante, più innovativa, più sperimentale e infine più gratuita, nel senso della grazia e del dono, se già non sono sinonimi, di Jean-Jacques Rousseau, autentico romanzo di ecologia della mente che trasforma il disagio del vivere in estasi e il tormentato groviglio delle emozioni in musicalità della prosa. L'intestazione in alto del sito di Book Crossing segnala donatore solitario. Le passeggiate di Rousseau sono un elogio del contemplare, del sentire lo scorrere del tempo, del godimento che si prova a non agire, del senso di pace e di comunione col mondo, dove per la prima volta, a proposito delle sensazioni che se ne traggono, e del paesaggio creato non solo dallo sguardo, ma anche dalla disposizione della mente, appare l'aggettivo romantico. Molte fotografie di Luigi Ghirri, maestro del guardare e dell'abitare i luoghi, senza nessunissima enfasi mi davano lo stesso effetto, oltre che degli occhi, per guardare il mondo. Sedersi. Stare seduti. Semplicemente sedere. Il lessico del buddismo zen mi viene di nuovo in soccorso. Stare semplicemente seduti, dicevo, si esegue in zazen, la meditazione. Il già citato shikantaza è un termine composto da quattro ideogrammi, ma shikan e tasa si possono isolare. Shikan vuol dire semplicemente, intensamente, senza oggetto. Tasa vuol dire essere seduti. Essere seduti intensamente, osservando senza oggetto, senza scopo, così come crescono l'erba e gli alberi, da soli. Attraverso Shikantaza, spiegano i maestri, le illusioni e i desideri vengono mitigati e via via eliminati. Si può anche Shikan, camminare, Shikan, mangiare e così via, in ogni azione della vita quotidiana, superando l'illusione soggettiva. Come poi tutto questo si possa armonizzare senza conflitti con lo scrivere, col rendere traccia e testimonianza, è il grande dilemma del sottoscritto. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani, silenzi e profondissima quiete. Questo è Leopardi, l'infinito, uno che scrive. Una volta portai quel sublime sonetto al monastero Zen e lo lessi di fronte al maestro. Da allora so che lo recita spesso ai discepoli e sono abbastanza sicuro che lo faccia a memoria, come fa con la poesia sul mare di Edoardo De Filippo e quella sul silenzio di Raffaello Baldini. L'infinito è il più bel testo letterario dedicato al qui e ora. Questo colle, questa siepe, queste piante, questa voce, questa immensità, questo mare. E nello stesso tempo all'oltre, al sogno, all'evasione dall'essere, all'infinito, appunto. Infinito silenzio. Dirlo nella sua impossibilità di dirlo. Un dire che illustra il carattere onnicomprensivo e sincronico della meditazione, poiché l'infinito è il desiderio ed entrambi sono incolmabili. Col loro vuoto si può però stringere un patto, dolce come il naufragare, cioè un abbandonarsi, immersi nel processo del nascere e del morire. Quando trovi il tuo posto, lì dove sei, la pratica avviene. Questo è Dogen, il patriarca, fondatore del Soto Zen nel XIII secolo. Sedersi nello Zen è già Satori, illuminazione. Nessun finalismo, pura gratuità. Stare semplicemente seduti, preferibilmente di fronte a un muro bianco e screpolato, le mani sul grembo, la schiena diritta, gli occhi aperti ma umilmente spioventi, perché un muro bianco, una parete, una siepe è già l'infinito, insegna Leopardi nel suo canto, ma anche ogni infinito, ogni spazio è un muro o una siepe, e quindi perché non una panchina in un parco, sul ciglio di una strada, di fronte al mare o al vuoto. Una panchina, ovunque si trovi, è il luogo ideale della pratica, cioè dell'illuminazione, anche quella nel cortile interno al mio condominio che il meraviglioso portiere Carmine, sorta di Chance il giardiniere, ha posto per chi la sa vedere, per chi si sa sedere. Anche lo Zarathustra di Nietzsche non ci sarebbe stato senza una panchina. Di fronte al lago di Sils Maria, il filosofo stava infatti seduto ad attendere, attendere ma senza attendersi nulla, al di là del bene e del male. In uno dei suoi ultimi libri, Le lune di Hvar, l'alla romano parla di panchine estreme. Una di esse, durante un soggiorno in Croazia, è quella che raggiungeva ogni giorno in fondo alla passeggiata lungo il mare per restare lì, in contemplazione. Contemplazione, parola che ho così spesso evocato in questo libro, significa precisamente fondare il proprio tempio. L'invisibile lavoro dello stare su una panchina è, a volte, quello di fondare o rifondare il proprio tempio, un po' come nella religione ebraica la festa delle capanne, che ricorda l'esodo, quando il proprio tempio veniva portato con sé lungo la propria erranza. Che altro è quel tempo e tempio, apparentemente perduto della panchina, tempo del lavoro invisibile, elaborazione, affezione, intensità, che Octavio Paz descriveva ad esempio nel suo ritratto di Marcel Duchamp, che durante le sue interminabili partite a scacchi elaborava silenziosamente il proprio lavoro estetico. Dal punto in cui Giacomo Leopardi galleggiava nell'infinito nel 1819, oltre quella siepe si vedono in fondo all'orizzonte le cime innevate dei monti sibillini. A sinistra della grande vallata si vede il mare, lo so perché l'ho visto. Ora, al posto della siepe c'è un muretto e una lapide a ricordarla, e di fronte al muretto c'è una panchina dove ci si può sedere a sognare o a contemplare. È nel giardino di un convento di suore, attiguo a una scuola superiore di decanati. Mi sono seduto su quella panchina. Quando sono uscito, qualcuno mi ha rivolto la parola. Credeva che fossi il nuovo insegnante di religione. È una sorta di malinconico, nostalgico, infinito, anche la saudagi, evocata da Antonio Tabucchi nel suo I volatili del Beato Angelico. Il comune di Lisbona ha da sempre messo delle panchine pubbliche in alcune zone della città, i moli del porto, i belvedere, i giardini da cui si domina il mare. Sono molti coloro che vanno a sedersi lì. Tacciono, con lo sguardo perso in lontananza. Cosa fanno? Praticano la saudagi. Cercate di imitarli. Certo, è un cammino arduo. Le sensazioni non sono immediate. Talvolta l'attesa dura persino degli anni. Ma lo sappiamo. La morte è fatta anche di questo. Luogo comune. Nei primi anni 90, grazie alla piccola notorietà che mi aveva dato la pubblicazione dei miei primi racconti da Feltrinelli, per un periodo tenni sulla Gazzetta di Parma una specie di seminario pubblico in forma di rubrica dal titolo Luogo comune. Il primo pezzo, dal titolo Abitare, verbo di moto al luogo, prese le mosse proprio dalle panchine del Parco Ducale e dagli immigrati che allora, pochi e quasi tutti africani, erano l'unica speranza di colori e di etnie nell'omologazione grigiastra delle città. Del resto, mi trovavo ad abitare a Parma dopo una lunghissima assenza. Raccontavo una passeggiata nel parco dopo alcuni giorni di pioggia settembrina, a un'ora insolita e piacevole, quella del torpore del dopopranzo domenicale. Nel parco c'era un'altra pioggia, quella delle foglie gialle degli ippocastani che danzavano sui vialetti e sull'erba, e la musica del vento che attraversava i rami ancora carichi al ritmo delle castagne che cadevano a terra scoppiettando. Profumo e prati di un verde intenso come nelle favole. Osservavo come anche la popolazione del parco quel giorno avesse per me qualcosa di inedito, di cui mi resi conto meglio sedendomi su una panchina. Poco lontano da me, sparsi sui prati, c'erano alcuni gruppi di africani che si riposavano con le loro scarpe ammaccate. I loro profili scuri erano coperti da abiti variopinti che risaltavano sullo smeraldo dell'erba. A quell'ora, nel parco, c'eravamo solo loro e io a tenere viva la cultura e la pratica dell'ozio. E mi venne in mente quella volta a Milano, d'inverno, in una pausa di lavoro, in un luogo di sosta che nell'articolo raccontavo così. Mi ero seduto su una panchina della piazzetta di fianco alla chiesa di San Simpliciano, zona elegantemente residenziale tra via Solferino e corso Garibaldi. Vicino a me un gruppo di maghrebini stavano accoccolati su altre panchine e sul cordolo di granito che cingeva la aiuola di terra, senza erba né fiori. Si apprestavano a consumare il loro pasto delle quattro pomeridiane. Bottiglie di succo di frutta e bisacce da cui estraevano pane, formaggio, scatole di sardine e cartocci di latte. Osservai il gesto accurato con cui uno di essi faceva colare l'olio delle sardine in un filone di pane aperto in mezzo. Intorno al loro ristoro si spandeva un piacevole silenzio che mi faceva sentire del tutto a mio agio. Sotto il cielo incolore di Milano, la mia sosta casuale divenne autentico riposo, grazie agli emigrati maghrebini, e dentro di me li ringraziai della loro presenza. L'ozio, ricordavo nel mio articolo, è resistenza culturale al neg-ozio, come scriveva già Francesco Petrarca nel suo bellissimo De vita solitaria. Presi spunto da quegli aneddoti per dedicare l'articolo al tema dell'abitare. Innanzitutto, che cosa significa questa parola? Avere un indirizzo, per esempio, cui ricevere la posta e qualche visita? Avere abitudini quotidiane? Quel verbo, così unanime e radicale, e così evidente, mi sembrava racchiudesse un mistero. Se ne parlava troppo in astratto. E che fosse diventato ormai quasi un verbo intransitivo mi appariva manifestamente assurdo. Anche i filosofi, ricordavo, ne parlano intransitivamente, come equivalente dell'essere. Così però si perde qualcosa. Si abitano dei luoghi e possibilmente insieme ad altri. Se ne hanno delle sensazioni, anzi, dei sentimenti, a volte di appartenenza. L'accordo, la consonanza dei sentimenti degli abitatori tra di loro e col luogo che essi abitano è il cuore stesso dell'abitare. Ed è di una ricchezza inaudita o inascoltata. Scrissi: siamo ciechi e sordi all'abitare, a ciò che il poeta Rilke poneva al centro del sentimento lirico nelle sue lettere a un giovane poeta. Non accusate la vostra vita quotidiana di essere povera, rimproverate voi stesso di non essere abbastanza poeta da richiamare a voi le sue ricchezze. Ed è anche il cuore l'abitare quotidiano, con le sue innumerevoli esperienze fatte di gesti, voci, consapevolezze, delle filosofie e delle pratiche imperniate sulla ricerca della saggezza. È importante quindi la consapevolezza del dove e come si abita, la cui risposta è una ricerca inesauribile. Da lì sviluppavo un altro pensiero, quello dell'ospitalità. Per gli immigrati e i rifugiati politici c'era in quel periodo il terribile assedio a Sarajevo. Citavo la vecchia e ambigua dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Dovrebbe bastare essere uomini per essere cittadini, ma non è mai stato così. Credo di non essermi granché evoluto rispetto a quelle frasi, forse ingenue. So sempre di meno che cosa sia abitare. Anche se nel frattempo ho cambiato già troppe abitazioni, ogni volta illudendomi di essere arrivato a casa. Ithaca è un luogo di sosta come un altro, prima di un nuovo viaggio. E il mistero dell'abitare è tutt'uno col mio vizio di raccontare delle storie, se non un sinonimo. Nel frattempo sono arrivato alla conclusione che siamo tutti, più o meno consapevolmente, dei rifugiati politici. Nella primavera del 2007, pur abitando a Roma, accettai, dietro insistenze di amici, di candidarmi in una lista alle elezioni comunali di Parma. L'idea era di dare una mano a sostegno di un candidato sindaco alternativo al delfino di colui che aveva già amministrato Parma per due mandati consecutivi, all'insegna dello slogan «Parma città cantiere». In una lettera aperta scrissi che Parma, con le sue presunzioni di metropolitana e le sue grandi opere, alcune ponti, ad esempio, inutili e pomposi, col suo consumismo opulento e sazio era ormai diventata un cantiere non solo della speculazione edilizia. Banche e costruttori hanno rimpiazzato l'industria agroalimentare, ma anche della noia e dell'anestesia, dell'ottundimento psichico e di quella che un sociologo ha chiamato vetrinizzazione sociale. Scrissi di vedere i parmigiani passivi come spettatori televisivi, ipnotizzati da un'ideologia del successo, quella del sindaco ad esempio, e della sua retorica, e contenti di essere invitati a un banchetto, anche se magari nel ruolo di panettoni più che di commensali. Facevo l'elenco delle bruttezze realizzate, come certe folcloristiche sculture messe qui e là, in piazze e angoli di Parma, il famoso arredo urbano, intercambiabile con vasi di fiori, auspicando, viceversa, una partecipazione collettiva di artisti e cittadini alla realizzazione e situazione di opere pubbliche. Opere, come si dice, partecipate. Esprimevo infine nostalgia di una sinistra che una volta era vincente nella società e nella cultura, anche senza essere per forza di governo. Una sinistra capace di connettersi con la vita delle persone, gli ideali e i valori, di guidare la cultura, ma soprattutto farsi guidare dalla cultura, sapendo che la cultura è soprattutto la vita delle persone, il loro immaginario e la loro socialità. Fui attaccato oltre misura dal potente apparato del sindaco e perfino additato per strada. Scriveva lo psicoanalista James Hillman che se i cittadini fossero consapevoli della loro fame di bellezza, scenderebbero a protestare per le strade. Il problema è come farglielo sapere, cioè l'educazione. Le elezioni a Parma furono un disastro per la mia parte politica, su cui gravava il dubbio esempio del governo nazionale e le mie peggiori previsioni confermate. La sostituzione della socialità con le vetrine e i centri commerciali continua. Le panchine, se esistono, sono soste commerciali, come in molte altre città, e sono diminuite nettamente anche nel parco, che nel frattempo, dopo un restauro milionario, è diventato un giardino. Sono molte ormai le città in cui i cittadini, per esistere socialmente, devono trasformarsi in clienti e consumatori, e tanto peggio se si mangia senza fame e si beve senza sete. È per avere detto che la desocializzazione a Parma è iniziata simbolicamente con l'occupazione dei gradini del monumento a Garibaldi, nell'omonima piazza, con fioriere per impedire alla gente di sedersi, che il sottoscritto ha ricevuto insulti e annunci di querela. Una da parte del sindaco uscente, una da parte del sindaco entrante, già delfino del sindaco uscente. Fu detto che su quei gradini si sedevano i drogati. Io mi sedevo anche con mio padre. E si sedevano altri signori anziani col cappello che assicuravano e tramandavano la memoria e il tessuto connettivo in quella città. Si sedevano vecchi partigiani, anziani umanisti e insegnanti coi giornali sotto il braccio, insieme a mamme e bambini. Una volta a Parma c'era la memoria, che si estingue più velocemente delle panchine. Adesso, come diceva l'anziana signora di Trieste, c'è la fobia del culo, la fobia di chi sta seduto e non fa niente, neanche comprare un aperitivo coi salatini e i pistacchi. L'ultima volta che sono stato a Parma era prima di Natale, ma sembrava di essere a Rimini in estate, nella città del parmigianino, di Maria Luigia e di Arturo Toscanini. Quasi tutte le insegne e le parole pubbliche che ho incontrato erano in inglese. Appena fuori dalla stazione c'era un cantiere con su scritto Temporary Station. Poco più in là, dove vendono libri, Library Box. C'era una mostra o fiera di gastronomia, ma c'era scritto Art and Food. Sentimento di inutilità e sconforto. A Parma avevo scritto per anni di fronte a insegni di locali come Harmony Bar. Non sarebbe più bello un caffè dell'armonia? In ogni piazza avevano montato una tenda dove vendere o reclamizzare qualcosa, e in quella principale il frastuono dei bar era come nelle discoteche di spiaggia. Camminando Non ho visto neanche una panchina. I caffè intorno al monumento a Garibaldi, i cui gradini non si vedono più per le fioriere, l'ultima volta erano piene di arbusti verdastri, hanno ricoperto le distese di tavolini con pesanti tettoie e pareti di vetro che impediscono di vedere il cielo. In realtà non fanno vedere niente, a parte fare vedere da fuori chi sta dentro. Alcuni avevano grandi schermi televisivi accesi. Sembrano grandi serre senza fiori per allevare i parmigiani come piante grasse. Lo so che si dice coltivare, ma allevare dà più l'idea. Comunque sia, i clienti possono stare in vetrina. Quella vecchia rubrica dal titolo «Luogo comune» finì dopo pochi mesi. Non subii mai censure. Il direttore, unica discontinuità nella storia di quel giornale di Parma, era il bravissimo Bruno Rossi, dimissionato un anno dopo. Finché non ironizzai sul mulino bianco di Barilla, che accostai allo scherzo che un buon tempone fece una notte versando detersivo nella fontana dell'enorme bianca scultura di Pietro Cascella, regalo di Barilla alla città, e che inondò di schiuma bianca un quartiere e un incrocio stradale. Lo associai al lanciere bianco, al cavaliere da poco sceso in politica, eccetera, eccetera. L'ultimo pezzo si intitolava «Cosa vedo dalla mia finestra», proprio come il titolo di un tema delle scuole elementari o medie, e invitavo i lettori a fare anch'essi questo utile esercizio di descrizione. Il senso era per me compendiato da una frase che citavo da «Finzioni in cui credere», un testo che Gianni Celati scrisse nel 1984 per Luigi Ghirri. «Noi crediamo sia possibile ricucire le apparenze disperse negli spazi vuoti attraverso un racconto che organizzi l'esperienza e che perciò dia sollievo, come quello di Luigi Ghirri. Non esiste nessun racconto che valga la pena d'essere fatto se non dà sollievo. Anche la tragedia dà sollievo. I brillanti smascheramenti d'ogni finzione, invece, no. Crediamo che tutto ciò che la gente fa dalla mattina alla sera sia uno sforzo per trovare un possibile racconto dell'esterno che sia almeno un po' vivibile. Pensiamo anche che questa sia una finzione, ma una finzione a cui è necessario credere. Ci sono mondi di racconto in ogni punto dello spazio, apparenze che cambiano a ogni apertura d'occhi, disorientamenti infiniti che richiedono sempre nuovi racconti, richiedono soprattutto un pensare immaginare che non si paralizzi nel disprezzo di ciò che sta attorno. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.